Covid-19, la corsa al vaccino e la nuova geopolitica. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Canada's top cybersecurity authority says COVID vaccine researchers are being targeted by professional hackers. Enormously good news is how leading experts are reacting to a COVID-19 vaccine being trialed in the US. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova puntata, l'ultima di questa settimana, di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono solo, ve lo ricordo, e sempre, non solo, Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza Elisabetta Fusconi e in regia Filippo Aureggi. I commenti e le domande via sms e via whatsapp al 349-238-6666. Commentare che cosa? Beh, oggi vi racconteremo la corsa al vaccino contro il coronavirus, contro il Covid-19. Una corsa che coinvolge molti attori. Da un lato ci sono quelli statali, dall'altro ci sono laboratori, aziende farmaceutiche e a latere anche le grandi organizzazioni internazionali e transnazionali. Che cosa significherà per il paese che riuscirà a vincere questa corsa contro il vaccino possedere, avere quella provetta che consente davvero di cambiare, forse una volta per tutte, le abitudini che, ahi noi, abbiamo abbracciato negli ultimi mesi? Quale valenza e quale peso geopolitico potranno avere gli Stati Uniti, se saranno loro, la Cina, oppure il Giappone, oppure l'India, o magari dall'Atlante geopolitico e dal grande cilindro uscirà il coniglio che non ci aspettiamo? Ecco, questo è il tema che vi propongo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Chi avrà la cura per il Covid-19 sicuramente acquisirà un peso nelle relazioni internazionali, nei commerci globali e probabilmente ai tavoli più alti delle relazioni internazionali. Prima di tutto, i nostri dossier. Il primo ci porta negli Stati Uniti ed è un dossier in salsa social. Forse gli ascoltatori più giovani riconosceranno immediatamente il social di cui sto parlando, è TikTok, basato soprattutto su video, molto amato dai giovanissimi. All'inizio il social proponeva una serie di brevi video, sostanzialmente di piccole performance personali. C'è chi danza, c'è chi si esibisce in qualità canore, c'è chi fa parkour, chi fa sport da combattimento, magari posta il suo ultimo incontro. Insomma, è un social network molto molto diffuso, che però appartiene alla Cina. Molto diffuso nel mondo, l'India per esempio è uno dei principali mercati, ma il problema sta proprio negli Stati Uniti. Perché? Perché recentemente il segretario di Stato Mike Pompeo, sotto pressione peraltro di diversi membri del Congresso, sta pensando di inserire TikTok in una lista nera che vieterebbe agli cittadini statunitensi di utilizzare appunto questa piattaforma made in China. Il tutto si inserisce per il dolore evidentemente dei tanti teenager americani, se vedranno bloccato il loro account, in quella guerra, in quel braccio di ferro ormai lunghissimo, che sapete si gioca in vari campi, in vari settori, è arrivato anche in quello tecnologico e persino nei social, un po', se volete, il prosieguo della lotta contro Huawei e il 5G made in China. Stiamo negli Stati Uniti perché la situazione del Covid-19 è anche quest'oggi allarmante. In effetti gli ultimi giorni sono stati particolarmente pesanti per molti stati. Per la prima volta registrati 70.000 contagi in un giorno, è il nuovo record, in un paese dove davvero la situazione epidemiologica non vede alcun miglioramento. Molti stati hanno, tramite i loro governatori, hanno reso obbligatoria la mascherina. Qualche grosso catena di negozi, qualche grossa catena di negozi ha reso obbligatorio la mascherina all'ingresso. Certo, suona veramente strano, suona bizzarro che dopo tutto quello che è accaduto vi siano luoghi nel mondo in cui ancora la mascherina, con quel livello epidemiologico, non sia obbligatoria. Stati Uniti, dicevo, ho citato l'India, l'ho citata perché è uno dei paesi in cui la piattaforma TikTok è maggiormente utilizzata. Ecco, uno degli hashtag che va per la maggiore è anche coronavirus. In un paese in cui il numero di contagi ha superato il milione, nel corso delle ultime 24 ore 35.000 casi, numero di morti 25.000, anche se in molti dicono, attenzione, che è assolutamente sottostimato. Oggi, come certificano i dati della Johns Hopkins University, l'India è il terzo paese al mondo per il numero di contagi, preceduto da Stati Uniti e Brasile. Infine, in Libia, la notizia sembra di secondo ordine, ma attenzione perché invece è molto molto importante. Un funzionario statunitense ha criticato la missione europea Irini. Sapete che è quella missione europea, abbiamo avuto ai nostri microfoni anche l'ammiraglio che la guida, che dovrebbe garantire l'embargo in territorio libico, un embargo aeronavale. Ebbene, questo funzionario statunitense ha detto che Irini non sta facendo abbastanza per garantire proprio il rispetto di questo embargo che è stato imposto dalle Nazioni Unite. David Schenker, segretario aggiunto presso l'ufficio per il Vicino Oriente del Dipartimento di Stato, ha parlato e ha detto che l'Europa avrebbe un atteggiamento di parte perché critica solo il coinvolgimento turco nel conflitto libico, mentre non va a stigmatizzare quello e non va soprattutto a intercettare i carichi di armi che arrivano da Russia, Emirati Arabi ed Egitto. Potrebbero almeno, ha detto, se fossero seri, denunciare tutte le parti in conflitto quando violano l'embargo sulle armi. L'Europa, ha sottolineato Schenker, potrebbe fare molto molto di più. Allora, letta così sembra l'ennesimo strale diplomatico che viene lanciato in uno dei tanti consessi internazionali, però va letta bene. Va letta bene in che senso? Sappiamo che ci sono 1200 mercenari della Wagner, società di sicurezza russa, riconducibile al Cremlino. Il Cremlino, la Russia, assolutamente ufficialmente non è in Libia, ma c'è. Questo fa molto paura agli Stati Uniti, tanto che molti diplomatici statunitensi stanno iniziando a fare la spola con la Libia. E da qui si legge la dichiarazione di Schenker, che inizia a lanciare degli avvertimenti anche all'Europa. Ne parlavamo proprio ieri. Gli Stati Uniti potrebbero tornare a fare gli sceriffi in Libia. Iniziano forse a preparare il terreno. Questi nostri dossier internazionali sono fatti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però vi dobbiamo raccontare la corsa ai vaccini. The vaccine by itself is not enough. Il vaccino da solo non è abbastanza. Abbiamo bisogno della solidarietà globale affinché ogni persona, ovunque nel mondo, possa accedervi. Un vaccino per tutti, per il quale mi rivolgo ai leader del mondo. Per questo la Francia, come lo richiedono le Nazioni Unite, si prepara ad aumentare di 100 milioni di euro il suo contributo affinché sia trovato un vaccino efficace contro il coronavirus che possa essere accessibile ad un prezzo modico. E questo senza smettere di impegnarsi sul fronte delle altre malattie. Tutto in mantenendo il livello di engagement necessario contro le altre malattie. We will have a very successful vaccine. Avremo presto un vaccino efficace. Stiamo facendo passi da giganti. Ho parlato con scienziati e dottori davvero incredibili. Incredible scientists, doctors. Health Canada has now approved the first Canadian clinical trials. Health Canada ha approvato il primo trial canadese per un potenziale vaccino contro il Covid-19 al Centro Canadese per i Vaccini dell'Università di Dalhousie. Per sconfiggere il coronavirus dobbiamo concentrarci su uno sforzo collettivo per la ricerca del vaccino e assicurarci che tutti i paesi, le case farmaceutiche e i partner internazionali cooperino su una scala che solo ieri era inimmaginabile. Cooperate on a scale beyond anything we've seen before. E questa copertina curata da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi, avete sentito un po' di dichiarazioni pesanti da parte dei maggiori leader mondiali, alcuni di essi peraltro toccati in prima persona dal Covid-19. Che cosa ci racconta questa copertina? Ci racconta il fatto che è in corso una vera e propria corsa, perdonate il gioco di parole, una corsa in cui giocano e corrono stati, istituzioni governative, laboratori scientifici, università, aziende farmaceutiche, organizzazioni non governative, e fra poco ne avremo un esponente ai nostri microfoni, ma anche in maniera sotterranea attori informali, mettiamola così, hacker in particolare, perché tutti i dati che sono stati condivisi da parecchi laboratori di ricerca, la denuncia arriva da Dominic Raab, l'equivalente del ministro degli esteri del Regno Unito, che ha detto attenzione che un gruppo di hacker russi ha recentemente tentato di violare le reti informatiche per carpire i dati necessari alla fabbricazione del vaccino. La denuncia arriva da Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. Una corsa quindi che diventa lotta, e quando diventa lotta diventa immediatamente sotterranea. Allora, dici hacker e dici Stefano Mele. Buongiorno Stefano Mele. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Diamoci del tu, Stefano, l'abbiamo deciso in separata sede, non so se ricordi, è inutile. No, perdonami anche la forse non proprio esaltante presentazione. Se dici hacker, dici Stefano Mele, lo ricordo agli ascoltatori. Stefano Mele è avvocato, esperto di cyber security e peraltro presiede la Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Con la tua competenza e le tue conoscenze, Stefano Mele, vorrei cercare di far capire a me e agli ascoltatori che cosa è accaduto, cosa sta accadendo sotto traccia e quanto sono vulnerabili quelle ricerche, quella mole di dati a livello mondiale che permetteranno, prima o poi, speriamo molto presto, a qualche laboratorio di trovare il vaccino del Covid-19. Beh, sta accadendo il classico gioco delle spie, potremmo chiamarlo così. Alcuni governi hanno, diciamo, usualmente utilizzano l'intelligence per raccogliere informazioni massicce da nemici, ma abbiamo imparato anche e soprattutto da alleati, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, per vantaggi politici, strategici, informativi, militari, economici. In questo caso è sicuramente il caso del report, è sicuramente quello legato a delle informazioni che poi generano vantaggi economici per quella nazione. Quindi alcuni stati, questo report focalizza sulla Russia, sì. Ma potremmo mettere tranquillamente il plurale, perché non è sicuramente soltanto la Russia che fa questo genere di attività in questo momento, cercano di sottrarre le informazioni per capire lo stato dell'arte da un punto di vista della ricerca in materia di vaccino anti-Covid-19 e dei test soprattutto che positivi o negativi su, certo, ipotetici vaccini che ci sono. Ovviamente è inutile nasconderlo, è chiaro che chi per primo fornirà questo vaccino sul mercato farà guadagnare all'azienda privato pubblica e al governo per cui quell'azienda paga le tasse miliardi di dollari a vantaggio quindi dell'economia generale. Quindi è chiaro che si sta combattendo una guerra informativa più aspra del solito su un tema molto caldo e che continuerà a essere caldo nei prossimi mesi, e di conseguenza dobbiamo fare particolarmente attenzione. Venendo alla seconda parte della tua domanda, sì, incredibilmente queste informazioni non sono protette come dovrebbero essere protette. Ah, questo è particolarmente preoccupante. L'allarme che sentite vi arriva da Stefano Mele, avvocato esperto di cyber security, presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Stefano Mele citava una serie di attori che sono coinvolti, per esempio la società cinese Sinovac, che sta sviluppando un vaccino basato su particelle di Covid-19 inattivate. C'è l'Università di Oxford, AstraZeneca, siamo quindi nel Regno Unito. Il vaccino in fase di sviluppo, per esempio in questo caso, è legato a un virus di scimpanzé che è chiamato vettore del vaccino. C'è la CanSino Biologics Incorporation, siamo qui a Pechino, in Cina. C'è la Moderna NIAID, lo dico all'italiana, Stati Uniti d'America. C'è l'Università di Melbourne, la Pfizer BioNTech, ancora Stati Uniti d'America, in collaborazione con la Germania. Le stime, Stefano Mele parlava di soldi, secondo alcune stime il mercato avrebbe un giro d'affari intorno ai 35 miliardi di euro, un settore che è in mano a poche aziende farmaceutiche. Però lo ripetiamo, qua è in gioco il benessere mondiale, la salute pubblica delle popolazioni di tutti gli stati, quindi è evidente che la politica internazionale metterà in campo degli aggiustamenti anche economici per garantire che il vaccino arrivi nelle dosi giuste a tutte le popolazioni, anche quelle più vulnerabili. Di questo aspetto però ne parlerò un po' dopo. Approfitto ancora una volta di Stefano Mele per una questione che è più sua, tra virgolette, è quello che studia. Perché, Stefano, queste vulnerabilità su un tema così importante? Hai sottolineato il fatto che chi vincerà la corsa al vaccino deterrà un potere economico, di influenza e anche geopolitico rilevante. Perché non proteggerle allora in maniera super accurata queste informazioni? Beh, perché normalmente la catena della protezione è forte quanto è debole il suo anello, scusa il gioco di parole, più debole. Quindi di conseguenza è chiaro che quando ci troviamo di fronte ad attori, soprattutto statali o sponsorizzati da uno Stato, in questo caso il report parla di attori russi, di APT29, sì, sì, e si dice a chiare lettere quasi certamente vicini al governo russo, quindi un'accusa diciamo anche ben oltre la, diciamo, la, i termini diplomatici classici dei governi, quindi di conseguenza molto mirata e molto diretta nei confronti della Russia. È chiaro che nel momento in cui tu hai di fronte questo genere di attori, nonostante tu ponga delle difese elevate, normalmente le agenzie di intelligence si muovono non come potremmo immaginare noi, in una linea retta, allora, dove per esempio le informazioni sono informatizzate, conservate all'interno di un sistema informatico, quindi io attacco il sistema informatico. No, si muovono attraverso varie fonti, attraverso varie strade, che può essere sicuramente l'attacco informatico diretto, può essere l'attacco informatico a società esterne che forniscono un servizio alla società principale, certo. Quindi cerco l'anello più debole della sua catena in altre aziende esterne che però hanno accesso alle informazioni e passo da lì, e non ultimo ma non ultimo attraverso la human intelligence, attraverso doppio giochisti, attraverso comprare le persone, ricattare le persone, manipolare la percezione delle persone e costringere a fare un comportamento che magari infetta il sistema. Quindi è chiaro che gli attacchi provengono da così tante fonti, così diversificate. Io ho ovviamente raccontato adesso molto brevemente quelle più ovvie, ma ce ne sono tantissime altre anche molto più subdole, ma non vorrei lanciare delle idee anche ai criminali che ci ascoltino, però che una volta ti ricorderai sono stato tacciato di fare questo. Sì, è vero. Stavi raccontando un po' di trucchi, tra virgolette, di cyberattacchi possibili, e qualche ascoltatore particolarmente sensibile ti additò come... Vabbè. Invece, quindi, Stefano, concludi il ragionamento, perché poi ho un altro... Volevo solleticarti su un aspetto. Ho capito il concetto, e sono certo che anche gli ascoltatori lo abbiano fatto, la filiera in questo caso, il numero di attori è così rilevante che è facile che vi siano delle falle. Lì sta l'abilità di questi due gruppi, se sarà confermato un giorno o l'altro che sono stati loro a tentare questa violazione all'abilità, dicevo, dei russi. Un ascoltatore... Ma guarda Giampaolo, scusami, alla fine ogni persona ha un prezzo, quindi se io non riesco a trovare una strada, sicuramente troverò una persona disposta a essere pagata dentro quell'azienda per sottrarre quelle informazioni. La human intelligence a cui faceva riferimento prima Stefano Mele, in un'epoca in cui è tutto cibernetico, è tutto virtuale, è tutto iperprotetto, ecco il fattore umano, forse è quello più debole. Abbiamo spesso raccontato del mondo delle spie, dell'intelligence, come si suole dire adesso, e di quanto ancora il fattore umano sia particolarmente sensibile e rilevante. La vecchia spia non andrà mai in pensione, su questo non c'è dubbio. L'attacco però di poche ore fa sicuramente era un attacco che arrivava da dietro una scrivania, probabilmente da Mosca, qualcuno dice il GRU, l'intelligence del Cremlino, staremo a vedere. Perché i russi si fanno sempre beccare quando fanno queste operazioni, quando fanno spionaggio? Chiede un ascoltatore. Stefano Mele, ne fanno così tante che prima o poi vengono alla luce, o siamo russofobi, come qualcuno ci continua a scrivere ogni tanto? No, non siamo russofobi, così come non siamo particolarmente anti-Cina e così via. Semplicemente sono una quantità costante, un flusso costante, continuativo di attacchi cibernetici tesi a prendere il maggior numero possibile di informazioni, di preparare, così come si suol dire, il campo di battaglia per eventuali conflitti cibernetici. Una quantità enorme di informazioni e un flusso continuo di tentativi di attacchi, dove può capitare inevitabilmente di venire a conoscenza effettivamente di ciò che è stato fatto, ma magari noi stiamo guardando a questo e ce ne sono altre tre che hanno ottenuto il loro risultato. E poi ricordiamoci sempre che quando tutto tace e non ci sono problemi, l'intelligence ha lavorato bene. Quando invece succede qualcosa, invece qualcosa evidentemente è andata male, tutti additiamo poi la responsabilità. Certo. Quindi non credo che dobbiamo come Occidente essere tacciati di russofobia o essere anti-Cina, anti-Iran, anti-Corea del Nord e così via. Lo spionaggio è un'attività fatta da tutti, indistintamente, dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, Stati Uniti, Cina, Russia, Israele e così via. È un comportamento normale, altrimenti le agenzie di intelligence non esisterebbero, non dobbiamo prenderci in giro e soprattutto non avrebbero questo genere di budget. Certo. Quello che occorre però rilevare è che ci sono alcuni governi che giocano con delle regole differenti dalle nostre, anche al gioco dello spionaggio, che normalmente è già un gioco con poche regole, ma poche regole che vengono seguite dai principali attori. Ecco, allora Normalmente, per esempio, non è normale che i governi utilizzino le agenzie di intelligence per scopi economici di qualche azienda nazionale. E quando questo avviene, inevitabilmente si viola una delle regole del gioco, perché se è vero che tutti facciamo spionaggio per informazioni di carattere politico, di carattere militare, di carattere più esteso sul piano informativo possibile, normalmente a questo gioco difficilmente succede, tranne per determinati stati, ancora una volta, che il governo si impicci, tra virgolette, del business delle sue aziende nazionali. Chiarissimo, allora chiarissimo Stefano Mele, ma qua torniamo a bomba, perché cosa c'è in gioco? Non voglio essere roboante nelle mie dichiarazioni, ma è in gioco il futuro del globo, almeno come lo abbiamo conosciuto fino adesso, fino a pochi mesi fa. Chi troverà il vaccino sicuramente assumerà un peso, una rilevanza, vestirà un abito diverso che forse non aveva mai vestito nei grandi equilibri geopolitici mondiali. Grazie mille Stefano Mele, avvocato, presidente della Commissione di Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Stefano, buona giornata e buon lavoro. Grazie. E vengo ai vostri messaggi che arrivano copiosi al 349-238-6666. Beppe da Como: sarebbe molto democratico se hacker russi diffondessero la ricetta del vaccino Covid al mondo, non ci sarebbe speculazione o cartello di Big Pharma. Beppe da Como, è un'utopia pura, perché come ci raccontava Stefano Mele, gli interessi economici e di relazioni internazionali sono così alti a questo punto che chi troverà o chi riuscirà a carpire, a rubare, la dico brutta, quelli che sono i segreti insiti nei laboratori che stanno lavorando sul vaccino, avrebbe un vantaggio competitivo enorme. Durante la guerra fredda, ricorda un ascoltatore, l'Occidente fece circolare dati sbagliati sul Concorde ai russi, che si ritrovavano in un progetto fallimentare. Sarà lo stesso, chissà, si chiama controinformazione. Voglio adesso però scendere un po' meglio nei dettagli su quella che possiamo definire a tutti gli effetti geopolitica del vaccino. Che cosa significa? Lo ripeto ancora una volta, tanti attori stanno lavorando sul reperimento e la fabbricazione vera e propria di questo vaccino, ma chi lo farà sicuramente avrà un vantaggio competitivo. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano, è Emanuele Capobianco, responsabile salute, Federazione Internazionale di Croce Rossa. Emanuele, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Allora, possiamo brevemente, anzi con uno slogan, così poi facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire la borsa e poi riprendiamo la discussione. A che punto siamo con la produzione dei vaccini? Quanto siamo stati veloci nel mondo in questa gara? Uno slogan e poi riprendiamo il discorso. Siamo stati velocissimi fino adesso, ma siamo ancora lontani da avere un vaccino che possa essere distribuito a livello mondiale. Allora, noi velocissimi, Emanuele Capobianco, andiamo a sentire la borsa e poi sempre velocissimi, torniamo da lei. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, la corsa al vaccino contro il coronavirus e di conseguenza anche il nuovo assetto geopolitico. Dopo l'avvocato Stefano Mele che ci ha raccontato meglio come tentano di proteggersi i ricercatori, hanno fallito qualche ora fa, attacco di hacker russi, avrebbero violato alcuni segreti di alcuni laboratori sparsi per il mondo, Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna lo hanno denunciato. Corsa, dicevo, Emanuele Capobianco, responsabile salute della Federazione Internazionale di Croce Rossa, ancora una volta buongiorno. Ci stava dicendo prima, abbiamo corso molto ma forse non abbastanza. Do due numeri poi ripasso la parola a Capobianco. I ricercatori di tutto il mondo stanno correndo, lo dicevamo, 160 le ricerche oggi attive che sono monitorate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si conta di avere un vaccino entro 12-18 mesi. Sono alcune le fasi. La prima è quella preclinica, che sostanzialmente utilizza gli animali. La fase 1 viene somministrato a un ristretto gruppo di persone. La fase 2, centinaia di persone. La fase 3, migliaia di persone, e per valutare anche gli effetti collaterali. A oggi 140 ricerche sono ferme alla fase preclinica, 19 alla fase 1, 11 fase 2, 3 fase 3. Emanuele Capobianco, proviamo a articolare meglio questa strana situazione in cui tutti corrono, qualcuno forse un po' più veloce. Sembra quasi una metafora, no? In cui bisogna quasi puntare su dei cavalli. Sì, abbiamo tanti cavalli che stanno correndo, 150 tutti lanciati verso il traguardo di un vaccino che sia efficace e che sia sicuro. Se mettiamo questa corsa in relazione alla corsa per altri vaccini, stiamo cercando di fare in 12-18 mesi quello che normalmente si fa in 15-20 anni. E arriveremo nell'arco di qualche mese ad avere uno o più vaccini che si potranno distribuire, ma sarà una lunga sfida ancora arrivare al vaccino giusto e poi produrlo nelle quantità che sono necessarie a livello mondiale, parliamo di miliardi di dosi, sì. E poi portare questi vaccini alle persone che ne hanno bisogno. Quindi sono tre fasi, una più difficile dell'altra, in cui ci sono molti problemi che devono essere risolti. Quindi siamo in un buon momento, ma la strada è ancora lunga. Sì. Intanto al 349-238-6666 qualcuno forse coglie in anticipo il senso di una parte del discorso di Emanuele Capobianco. Lo ricordo che è responsabile salute Federazione Internazionale di Croce Rossa. I paesi del sud del mondo saranno gli ultimi a ricevere il vaccino, pagando il prezzo più alto nel lungo periodo. C'è qualcuno che dubita che sia necessario un vaccino, così un ascoltatore o ascoltatrice Massimo, un ascoltatore che dice: ma siamo sicuri che se è necessario un vaccino ci viene fatto credere che lo sia, ovviamente per denaro, e qua purtroppo si entra in una narrativa davvero pericolosissima. Emanuele Capobianco, ma anche poi se vuole dire una cosa, una parola su questo aspetto che credo sia molto molto delicato. Torniamo però alla compresenza di tanti attori che dicevamo. Ci sono aziende farmaceutiche che sono soggetti privati, ci sono soggetti statali, ci sono università pubbliche, università private. Abbiamo sentito poc'anzi da Deborah Rosciani come alcune aziende farmaceutiche siano già sotto attacco speculazione, insomma ci sono anche sommovimenti finanziari, quindi c'è molto molto in gioco. La presenza di aziende private è preoccupante o è un utile volano, un utile motore? Ma è necessaria, perché la produzione dei vaccini inevitabilmente passa attraverso aziende private. Quindi quello che deve essere controllato è il rapporto tra i governi e queste aziende private, e quello che è importante è cercare di supportare quelle iniziative che sono mirate all'equità, a degli accordi che porteranno i vaccini ad essere disponibili nel mondo in maniera più larga possibile. E questo è una grossa sfida, perché quello che stiamo vedendo al momento invece sono diversi governi che stanno correndo per accaparrarsi, ancora prima che un vaccino esista, le dosi che verranno messe a disposizione in futuro, quando il vaccino verrà prodotto, e solo per fini nazionali. E questo è un problema che chiaramente muove le politiche in tutto il mondo, dei paesi in tutto il mondo. La voce che state sentendo è quella di Emanuele Capobianco, che è capo salute della più grande organizzazione umanitaria al mondo, la Federazione Internazionale di Croce Rossa, e ha seguito per esempio l'epidemia di Ebola, che è stato in qualche modo una pietra miliare con tanti punti di contatto rispetto al Covid-19, anche nella ricerca, nella corsa per il vaccino. Dicevo, Capobianco giustamente sottolinea quella che è una sua preoccupazione, che l'egoismo, il solipsismo di alcune entità nazionali, di alcuni stati, evidentemente, che puntano esclusivamente ad avere il vaccino per se stessi, possa portare a quello che, attenzione, introduco un altro tema, un interessante articolo ripreso dal Council of Foreign Relations, chiama catastrofico successo, poi nell'ultima parte in Nessun Luogo Lontano andremo un po' meglio su questo aspetto, e fa l'esempio, badate bene, di quando gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq, la guerra si è conclusa, gli Stati Uniti hanno vinto, ma si sono trovati per le mani un catastrofico successo. La pandemia è globale, se non vi sarà una soluzione globale, questa è la tesi, anche se uno Stato vince, praticamente sarà una vittoria di Pirro. L'ultima domanda, Capobianco, perché ha fatto cenno a quello che è andare a comprare, fare preacquisti su dosi massicce di vaccini. Come funziona questo preacquisto? Chi lo fa? Lo fanno i governi, lo fanno gli Stati, e verso chi? Sono i governi che in questo momento stanno già acquistando delle dosi di vaccino attraverso dei meccanismi che in inglese si chiamano advanced market procurement, in cui vengono acquistati in anticipo centinaia di milioni di dosi che forse verranno prodotte in un futuro. E questo, soprattutto gli stati più ricchi stanno investendo, e le aziende farmaceutiche, alcune di queste, stanno già producendo in questo momento dei vaccini senza sapere se questi vaccini saranno dei vaccini funzionanti o meno, ma gli investimenti che si stanno portando avanti aiutano alla produzione su scala, così nel momento in cui dovesse essere disponibile un vaccino, essere identificato un vaccino, ci sarebbero già milioni di dosi che potrebbero essere immediatamente messe nel mercato. E questo è affascinante perché potrebbe ridurre ancora, in misura ancora maggiore, il ritardo per l'arrivo di questi vaccini sul mercato, per cui è un mondo in movimento. Abbiamo sentito la borsa prima, sì, in che parlava appunto delle aziende farmaceutiche. In questo momento chiaramente sono sotto l'interesse di tutti, perché chiaramente sono grossi investimenti che stanno cominciando ora, prima che il vaccino sia disponibile. Certo, certo. È in questo momento che si decidono anche chi lo avrà il vaccino, e noi di Croce Rossa siamo molto preoccupati che il vaccino possa rimanere nei paesi ricchi e che altre persone che ne hanno bisogno in altri paesi possano non avere accesso al vaccino, e di conseguenza l'epidemia possa protrarsi in questi altri paesi, con poi il rischio, come diceva lei, di avere delle reinfezioni anche in paesi più ricchi, perché siamo tutti interdipendenti in questa pandemia. E si materializzerebbe quel catastrofico successo cui facevo riferimento prima, o vittoria di Pirro, a seconda dei vostri riferimenti storico-letterari. Grazie mille, Emanuele Capobianco, responsabile salute, Federazione Internazionale di Croce Rossa. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Carlo scrive al 349-238-6666, si potrebbe arrivare ad avere l'approvazione di vaccini di diversa efficacia, è proprio quello che mi diceva, ve lo confesso, ci siamo sentiti durante tutto il pomeriggio, Emanuele Capobianco, prima della messa in onda. Manca sempre il contraddittorio fondamentale per informare al meglio, scrive un ascoltatore, ma contraddittorio di che cosa? Non ho capito, se lei vuole qualche alfiere o qualche bandiera dell'antiscienza o antiscientificità, qua le garantisco che ha sbagliato assolutamente trasmissione, le fa eco e le risponde un altro ascoltatore. Vaccino, dicotomia, Covid-19 o autismo, sento già le grida degli antivax. E direi che questa pagina in nessun luogo è lontano, dedicata a quella che è una visione molto grandangolare da parte di Croce Rossa, ma che è molto importante, cioè chi sta lavorando sul Covid-19, quali sono i pericoli del settore privato, quali sono le responsabilità degli stati, perché trovare il vaccino e tenerselo per sé non è sicuramente la soluzione globale. Viabilità e poi il prossimo ospite. Lei l'hai aspettata 39 settimane e 17 ore. Lei... 5 minuti e scendo! La stai aspettando da 23 minuti. 24. E allora perché vuoi aspettare anche lei? Non aspettare il bonus statale per scegliere la gamma Toyota Hybrid. Già a luglio puoi averla con Hybrid Bonus fino a 8.500 euro, qualunque sia il tuo usato. Dettagli e condizioni del bonus per ogni modello su toyota.it. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, l'ultimo tassello per cercare di completare il ragionamento e il racconto relativo alla corsa al vaccino. Chi troverà il vaccino per il Covid-19, sia esso un'autorità statale, tramite evidentemente aziende farmaceutiche, otterrà un vantaggio geopolitico innegabile che al momento però non è facilmente quantificabile. Potrebbe essere gli Stati Uniti, potrebbe essere il Canada, potrebbe essere la Cina stessa. Xi Jinping ha detto: attenzione, il vaccino è un bene pubblico. Invece le dichiarazioni più autarchiche del presidente americano Donald Trump lasciano immaginare scenari diversi. Che mondo ci aspetta? Buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano a Vittorio Emanuele Parsi, insegna relazioni internazionali e direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali alla Cattolica di Milano. Professor Parsi, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora, intanto vi consiglio, lo sapete che noi ci concediamo anche consigli di lettura, Vulnerabili, come la pandemia cambierà il mondo, 3 scenari per la politica internazionale, edito da PM, che è l'ultima opera scritta direi di corsa, ma non per questo senza grande qualità assolutamente, professor Parsi. Parsi, ma visto che parliamo di corsa al vaccino, ho scritto di corsa nel senso che il professor Parsi ha colto la palla al balzo, questa grande emergenza internazionale, e ha cercato di riraccontare, o meglio prevedere, come sarà il mondo. Domanda diretta. Catastrofico successo, così il Council of Foreign Relations definisce il momento in cui uno Stato da solo troverà il vaccino e se lo terrà per sé. È d'accordo? Sì, direi di sì, perché lei capisce che di fronte al fatto che la pandemia ci ha messo sotto gli occhi quella interdipendenza naturale che prescinde in qualche modo dall'architettura del sistema internazionale, delle sue regole, anche dei suoi equilibri di potenza o squilibri di potenza, ebbene, nel momento in cui la pandemia ha evidenziato che esistono delle interdipendenze strutturali, appunto, che non sono costruite da noi, dalle nostre visioni, ma sono nelle cose, se la risposta complessiva a questo tipo di fenomeno invece fosse completamente iscritta all'interno di logiche di sovranità rivali tra di loro, sarebbe, come posso dirle, il danno oltre che la beffa, sarebbe proprio il dire che siamo incapaci di immaginare e realizzare un sistema in grado di governare gli eventi imprevedibili, sì, e imprevisti, sì, in cui la reazione all'imprevisto, come insegna la strategia, è l'elemento cruciale, certo, di tutto. Certo, è facile governare la barca quando il mare è calmo, il capitano vero, diciamo, si emerge quando invece il mare è in tempesta. I mari sono tempestosi in questi mesi, ascoltatrici e ascoltatori, lo sappiamo molto molto bene. Al di là del fatto, come dire, meramente economico, professor Parsi, poniamo il fatto che, per ipotesi, gli Stati Uniti, con le loro aziende, i loro laboratori, trovino il vaccino e però lo concedono al mondo, quindi evitino questo atteggiamento egoistico e poco rispettoso e omaggiante delle relazioni internazionali. Che tipo di potere in più acquisirebbero? Esisterebbe una maggiore statura morale internazionale? Non so neanche come definirla. E come si potrebbe espletare questo peso geopolitico? Beh, diciamo che in un momento in cui gli Stati Uniti hanno un'immagine estremamente appannata, sia per il modo molto personalistico e incoerente o incostante, se vuole, con cui questo presidente degli Stati Uniti guida già uno simbolo riferito a Trump, la politica estera del paese, sia per la dimostrazione di clamorosa inefficienza e direi addirittura inefficacia con la quale stanno provando a fronteggiare la dimensione, diciamo così, domestica, sì, all'interno degli Stati Uniti della pandemia, la capacità di trovare un virus e di renderlo un vaccino e di renderlo disponibile a tutti consentirebbe loro un forte recupero di immagine e quindi una maggior coerenza tra la pretesa di essere i leader del sistema e la pratica, sì, di essere i leader. Chiarissimo. Chiarissimo. Professor Parsi, lo ricordo, stiamo ascoltando l'analisi di Vittorio Emanuele Parsi, Scuola Seri della Cattolica, ha scritto proprio un libro interessante su quello che sarà il mondo che verrà dopo il Covid-19. C'è un problema di prezzo, abbiamo capito che c'è un fattore economico molto molto importante. Quanto influirà la logica del prezzo del vaccino, o meglio del costo del vaccino, perché molti stati promettono, se non il vaccino gratis, addirittura di andare a calmierare i prezzi? Allora, qui è proprio il problema degli Stati Uniti negli ultimi 40 anni, ma un problema complessivo degli Stati Uniti, sì, nel senso che lei sa che anche, per esempio, nell'ultimo libro di Stiglitz c'è una grossa polemica contro il cosiddetto Big Pharma, sì, e contro il fatto che come posso spiegarlo in maniera semplice, ma così. Ecco, il riconoscimento del costo della ricerca scientifica, che in qualche modo sarebbe tutelato dai brevetti, in realtà produce, dati alla mano, una protezione di posizione dominante. Nel senso che gran parte di quella che poi è il costo della ricerca pura, da cui poi arrivano le applicazioni, è sostenuto in effetti già dalla mano pubblica, sì, e quindi non c'è nessun tipo di giustificazione, perché poi la tecnologia che in qualche modo l'attore privato mette in essere grazie agli investimenti pubblici sia ancora una volta tutelata, non so se mi spiego, sarebbe come riconoscere una doppia contribuzione, un doppio sussidio. Allora a me sembra che il problema degli Stati Uniti in questo momento è che con il loro sistema sanitario e con l'enorme influenza che hanno le grandi compagnie farmaceutiche su quel mercato, sarebbe estremamente difficile riuscire ad arrivare a un prezzo basso. Consideri che molti farmaci, tra l'altro costano negli Stati Uniti 4-5 volte più che in Canada, la stessa molecola prodotta dallo stesso fornitore, semplicemente per quel perverso meccanismo tra assicurazioni private e grande industria farmaceutica. Grazie mille Vittorio Emanuele Parsi, un ultimo tassello, ultimo, Vittorio Emanuele Parsi, Aseri, Cattolica, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, Filippo Reggi, una parola. I saluti, i ringraziamenti a voi, alla squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è domani ore 10 col meglio di, e poi lunedì, l'ultima settimana di Nessun Luogo, vi aspetto alle 16.